Ecco noi Daniela Currò della Cineteca Nazionale per parlare dell'uscita in sala del film Ultimo Tango a Parigi in versione restaurata dal 21 al 23 maggio. Daniela, benvenuta. Grazie, Allora, per chi non lo conoscesse, intanto spendiamo due parole sul film, brevemente la trama. grazie. Sì, beh, allora, credo che sia difficile non conoscere il film. Comunque, ovviamente i protagonisti sono Marlon Brando e Maria Schneider, sono due sconosciuti che si incontrano assolutamente per caso a Parigi e instaurano subito una relazione intima, ma come sconosciuti, quindi non vogliono sapere niente l'uno dell'altro. Ovviamente sarà difficile mantenere questa relazione fino all'esito che non vi svelo. E ovviamente il film è molto al di là di tutto lo scandalo che generò nel 72 quando uscì nelle sale, poi anche negli anni seguenti. Il film è un bellissimo film sui rapporti tra le persone, sulla solitudine e anche sui temi del contrasto tra la giovinezza e l'età del tramonto. Invece, infatti, Marlon Brando interpreta un uomo che ha ormai già vissuto gran parte della sua vita, mentre Maria Schneider è giovane, fresca e ha tantissime cose che si prospettano per un roseo futuro. Quindi è molto interessante il film appunto sui rapporti interpersonali, interpretato ovviamente benissimo, girato benissimo da Vittorio Storaro, diretto ovviamente da Bernardo Bertolucci, e anche un motivo in più per andare a vederlo in sala è la musica fantastica scritta da Gato Barbieri. Daniela, oltre agli Osanna della critica e dei festival, subì anche dei grossi problemi di censura, però. Certo. Allora, il film venne, innanzitutto ci fu un'anteprima internazionale al Lincoln Center a New York, dove venne accolto molto bene. Poi nel 72 uscì in Italia ad ottobre e poco dopo venne subito sequestrato, proprio per il fatto che il film era per l'epoca un film molto esplicito, si vedevano molte scene di rapporti intimi tra i due protagonisti, e quindi fece moltissimo scandalo. Venne censurato, poi ritornò nuovamente in sala, venne censurato nuovamente e addirittura nel 74 le copie furono messe a rogo. Caso unico, Sì, diciamo, nella storia recente del cinema. E venne riabilitato in Italia solo nel 1987. Quindi ha avuto ovviamente una storia molto travagliata e ovviamente fu travagliata anche, diciamo, le vicende che dovettero affrontare il regista, i produttori, i sceneggiatori. Addirittura Bertolucci perse per 5 anni i diritti politici. sì. Oh, che tipo di lavoro di restauro è stato effettuato? Allora, per questo restauro siamo partiti dal negativo originale che è conservato a Los Angeles dalla Metro-Goldwyn-Mayer. Questo è un bel progetto anche di collaborazione che abbiamo portato avanti con l'avente diritto italiano Alberto Grimaldi e con l'avente diritto internazionale, la MGM. E abbiamo scansionato il film in digitale a risoluzione 4K e a 16 bit. Poi abbiamo portato avanti le lavorazioni di restauro dell'immagine e la correzione colore che è stata curata dal direttore della fotografia Vittorio Storaro. E poi al CSC abbiamo anche lavorato al restauro del suono e per questo ci ha aiutato l'ingegnere del suono Federico Savina. E il film poi uscito adesso, è presentato in anteprima al Bari Film Festival, uscirà adesso nelle sale appunto in questi giorni. In Il quante sale sarà, Daniela? confermo. Scusami? In quante sale sarà? Sarà in oltre 150 sale in tutta Italia, ovviamente diverse sale nelle maggiori città italiane, e la cosa importante è che in parte delle sale sarà proiettato in lingua originale, quindi con la doppia colonna inglese e francese. Per la maggior parte del film Marlon Brando parla in inglese e Maria Schneider parla in francese. Quindi, diciamo, il pubblico dei cinefili, sicuramente io consiglio di andare a vedere le proiezioni in lingua originale. Ovviamente per è più accessibile, però per un pubblico più vasto abbiamo anche proposto la versione con il doppiaggio originale in italiano. Daniela, prima di salutarci, accenniamo brevemente anche alle varie attività della Cineteca. Certo, la Cineteca nazionale ovviamente è la Cineteca di Stato, la Cineteca più importante in Italia, è la Cineteca porta avanti da tantissimi decenni un'opera di conservazione del patrimonio culturale, preservazione e restauro e diffusione culturale. Quindi siamo impegnati su tante attività che sono appunto quelle del mantenere in vita per le generazioni future il patrimonio cinematografico italiano e diffonderlo il più possibile per le generazioni presenti, e soprattutto cerchiamo di giungere anche il pubblico dei giovani. Siamo attivi con delle proiezioni in una nostra sala qui a Roma, la Sala Trevi, e ovviamente portiamo avanti tante attività anche diffondendo ad esempio il patrimonio all'estero, collaborando con gli istituti italiani di cultura, ma anche con rassegne e festival in giro per tutta Italia. Siamo molto attivi nel collezionare il patrimonio, diffonderlo anche attraverso mostre fotografiche, e quindi diciamo lavoriamo su tanti fronti. Sì, sì, sì. Allora ricordiamo l'uscita in sala della versione restaurata del capolavoro di Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi, dal 21 al 23 maggio ad opera della Cineteca Nazionale. Un saluto e un ringraziamento a Daniela Currò. Daniela, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, un saluto a tutti, ciao.